21 a 32, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. 8 giugno 2020, inizia Disorder anche per questa sera, sperando che uno dei due lettori non ci tradisca nel momento più bello. Comunque 0649 17 50, il contatto telefonico, www.ondarossa.info il nostro sito internet per ascoltarci attraverso un computer. Per l'indirizzo di posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Per quanto riguarda naturalmente questo spazio, come i più affezionati sanno, domani comparirà la registrazione, quindi con la playlist conseguente, a partire sia dal sito della radio ma anche attraverso la pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder. Ricordo il radio abbonamento che è stato prorogato fino al 30 settembre. Un radio abbonamento attraverso crowdfunding, ma non solo, che prevede 30 euro per 1000 ascoltatori. Quindi una cifra quotidiana abbastanza risibile. Questo per sottolineare la realtà di questa radio che da sempre è autogestita, ormai dal lontano 1977. Quindi nessuna pubblicità, nessun legame con qualsivoglia partito o partitino politico. Quindi si regge con gli eventi dei centri sociali e con chi sottoscrive per questa realtà. Salutiamo Maya dalla Sardegna, Antonio Zoviet come omicidio, Valente musicista industrial in quel di Firenze, Cristiano Bocci dalla Toscana, Chemical Resistance, Duo Serpe, eccetera eccetera, Giuliana qui a Roma, il medico della peste. Till the spirit new sensation takes hold, then you know. Un saluto a Isa Etual in quel di Milano, Dario Arrigo di Progetto No Name insieme a Sara K.O. Fontana. Gianluca Becuzzi qui a Roma, Ernesto Darfenes Galli sempre qui da Roma. Ancora qualche saluto e si va ad iniziare. Gennaro D'Elena di Eastland Lake, Francesco Cornello in quel di Bergamo, Flavio Derbecante, anche di lui ascolteremo del suo materiale come DB Pit, Maria qui a Roma, il maestro Eloquence Recycle. Quindi iniziamo dal profondo sud, dalla Sicilia, con questi Partinico Rose, una realtà recentissima, proveniente appunto dalla Sicilia, da Partinico ovviamente, come si può anche intuire dal nome, e che si muove su queste coordinate dark wave di scuola Cure, a cominciare anche dall'ottima parte vocale. L'album si chiama Songs for Sad and Angry People. E questa sera ci ascoltiamo The End Summer e Rehab From You. Thank you. And that particular case of sins of loss was a artful and sinful darker and too old. We were there like a puppet stalks. The only difference was a part with was the other dart. This is what you want, this is what you have. We wanna rear from your stupid political talks. Precious honest little legs into the nothing eyes. We refuse your useless false friendship. We are living in this prison now, like skeletons that walk for the streets in town. We are living in this prison now, like skeletons that walk for the streets in town, like skeletons that walk for the streets in town. In that particular case, our sins of loss was our full and sins of darker and too old. We were there like puppet stalks, and all indifference was by with was the year dark. This is what you want, this is what you had. We want a rare from your stupid political souls. A vicious honest little lips into the nothing and we'll refuse your useless false friendship. We're living in this prison now, like skeletons that walk for the streets in town. We're living in this prison now, like skeletons that walk for the streets in town, like skeletons that walk for the streets in town. Buonasera anche a Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta. Filippo Droneos è qui a Roma, che presto chiameremo in causa. Arianna Degni Lombardo, Xena, anche lei collabora ed è partecipe al progetto di BPIT insieme a Flavio Rivabella. Petrolio di Enrico Cerrato, un saluto anche a lui. Anche lui del Piemonte, un Piemonte che ci dona molti talenti, soprattutto di area industrial. E invece, tornando a questa Sicilia dei Partenicorous, non si può non ammettere una notevole freschezza e una progressione rock che arricchisce un suono già abbastanza ispirato dai Cure da un lato e, come giustamente mi dice Giuliana, anche degli Alarmi, New Model Army. Fatto sta che è uscito fuori un album molto interessante, Songs for Sad and Angry People, l'esordio Ricordo l'ottima voce di Vincenzo Carrizzo, che suona anche la chitarra, Massimo Russo al basso, Carlo Scambari alla batteria, e abbiamo anche apprezzato il violoncello di Martina Monache. Ed è un periodo che ci stiamo soffermando su interessantissime realtà italiane che vanno a nobilitare il patrimonio, il nostro patrimonio dark wave, post punk, eccetera eccetera, e questo discorso chiaramente lo estendiamo anche agli Instant Lake. Loro invece al secondo lavoro, sempre del 2020, dal nome Disto Dream, un album che esce con la Wake Record, etichetta brasiliana. Wave Record, scusate, che però sempre brasiliana rimane, di San Paolo. Tornando a Disto Dream, anche questa è un punto, una realtà che si muove nell'ambito del post-punk, ma è irrobustita con notevoli iniezioni di elettronica, e di ciò ce ne renderemo conto anche ascoltandoci gli ultimi due brani, White Noise e Tirsch. Oh, Altra importante novità per quanto riguarda il panorama italiano del post-punk, della dark wave, i casertani, perché credo provengano proprio da Caserta tutti gli elementi di questi Instant Lake, secondo lavoro dal nome Disto Dream, uno dei lavori più interessanti di questo 2020 per quanto riguarda questo ambito. E abbiamo trascorso 3 settimane insieme a loro molto piacevolmente, e quindi vado a salutare Gennaro D'Elena, voce e testi, per Luigi Grauso, chitarra e theremin, Carlo Landolfi, basso, Dario Amoroso, sintetizzatori e la programmazione.